Storie italiane. La vecchia lanterna. In una strada trafficata, in un angolo tranquillo, ci sono io, una vecchia lanterna. Sono qui da anni, ne ho viste passare di tutti i colori, sia le persone che il tempo. Nel corso del tempo ho visto tante cose, tanta gioia, tanta felicità e un po' di tristezza. Eppure non cambierei nulla. Mi ricordo tutto. I bambini giocano vicino a me e leggono libri al calore della mia luce. Amici che si incontrano dopo anni, senza essersi mai dimenticati. Quando il circo era in città, i clown suonavano la trombetta e i giocolieri giocolavano. E poi lei ha cantato e ballato nel bagliore della mia luce. Era come se stesse ballando proprio solo per me. E un giorno portò qualcuno con lei. Ballò mentre lui suonava la chitarra. Si baciarono e ballarono assieme. Una notte, sotto la mia luce, lui le chiese di sposarlo. Lei pianse e poi disse di sì. Non la vidi più ballare molto spesso dopo quella notte. Dicono che è arrivato il mio tempo. Tempo per essere sostituita. Spero che non sia vero. Vorrei che non fosse vero. Temo che sia tempo per lei di venire rimpiazzata, mia cara. Preferiscono le lampade a gas adesso. C'è sicuramente qualcosa che possiamo fare per lei. Per tutto questo tempo è stata con noi. Adesso è quasi di famiglia. Cosa le accadrà? Beh, non lo so. Forse la fonderanno per trasformarla in qualcosa di nuovo e scintillante. Non voglio che venga trasformata in qualcos'altro. Voglio che rimanga così com'è. Se la trasformo in qualcos'altro, non sarà più la stessa. Non c'è qualcosa che possiamo fare. Va bene, fammi vedere cosa posso fare. Forse posso convincerli. Non ti prometto niente, ma farò del mio meglio. Grazie. Grazie mille. Proveranno? Posso sperare? Ha detto che proverà a farmi rimanere. Oh, che sia benedetto. Quell'uomo e quella donna hanno un cuore grande quanto la luna. Potrei avere ancora una possibilità. Devo dirlo ai miei amici. Avrebbero dovuto essere già qui. Pensi che sia un buon momento per parlare con lei? Non lo so. Pensavo che lo avresti saputo tu. Perché credevi che l'avrei saputo io? Cosa te l'ha fatto pensare? Poi, ma che pensi, Nah, provarci ora? Te la farò vedere. Non mi tentare, puzzolente pezzo di... Gentiluomini, smettetela subito di litigare. Ho buone notizie. Potrei ancora venir salvata. Proveranno ancora una volta. C'è speranza. Potete crederci? C'è ancora una possibilità. Evviva, evviva! La nostra amica rimarrà con noi. La nostra amica non se ne va da nessuna parte. Evviva, evviva! La nostra amica rimarrà con noi. La nostra amica non se ne va da nessuna parte. Vedi, te l'avevo detto. Tutto si sta mettendo a posto. Aspetta un attimo, io te l'avevo detto. Come osi dire che me l'avevi detto quando sai che ti ho detto quello che ti ho detto? Tu, amico mio, stai mentendo. Io te l'ho detto, tu me l'hai detto. Amici miei, fermatevi. Questo non è il momento per litigare. Dovete smetterla. Zitti ora, la moglie del consigliere sta arrivando. Zitti! Mia vecchia amica, ne hai passate tante, giorno e notte, gioia e tristezza, guerra e pace. Eppure sei rimasta lì, in piedi, sempre illuminando la nostra via e condividendo il calore della tua fiamma con noi. Come possiamo lasciarti andare? Sei nei nostri cuori e nelle nostre anime. Mia cara, temo di avere qualche brutta notizia. Non sono stato in grado di convincerli a lasciarla rimanere. Hanno deciso di rimuoverla domani mattina. Questa sarà la sua ultima notte. Non può essere. Deve esserci un modo. Ho provato di tutto, mia cara. Mi dispiace. Questo è ingiusto. Avevo una speranza. Adesso non ne ho più. Siamo così dispiaciuti. Non vogliamo vederti andar via. Nemmeno io. È giunta la mia ora. È la fine per me. Di quale fine parli? Non c'è nessuna fine e nessun inizio. Siamo eterni, mia cara amica. Wow! Oh. Oh? Che cos'è? Attenti voi due. Non c'è niente da temere, amica mia, perché hai me e questi due buffoni. Ehi, amici intelligenti e divertenti che sono anche un po' buffoni, giusto? È vero. Va bene allora. Tu hai me e loro e tanti, tanti altri amici che ti hanno conosciuta. Chi si è crogiolato nel tuo bagliore non sarai dimenticata da loro. Vivrai per sempre. Questo è vero. Ma i ricordi? Cosa ne sarà dei ricordi che ho di loro? Tutto rinchiuso per non essere mai dimenticato. Capisco. Allora ti farò un regalo perfetto. Non appena il consigliere verrà a spengere la tua fiamma per l'ultima volta, io verrò a soffiare nella tua mente per rimuovere ogni memoria da essa. Così i ricordi non ti faranno soffrire o star male. Pensi che sia un bel regalo? Lo sarà. Che dono generoso che hai fatto alla tua amica. Dimenticata allora? La tua vecchia amica, la Luna. Tu e io facciamo la stessa cosa per innumerevoli persone in tutto il mondo. Illuminiamo la loro strada nell'oscurità, in modo che sappiano che c'è sempre qualcuno che veglia su di loro. Mai, amica mia, mi avevi mostrato cos'è essere. Ho a cuore tutto ciò che hai fatto. Va bene? Ma ho una sorpresa speciale per te. Il mio regalo per te è insieme a due tuoi amici, le nubi e le stelle. Ciao, amica mia. Ho amato vederti ogni giorno, vedere la tua luce risplendere per gli altri. Il mio regalo per te è questa pioggia, per farti sentire fresca e per lavare via tutte le tue lacrime. Grazie, amico mio. È bellissimo. E anche questo arcobaleno è per te. Oh, come mi piace vedere questo nel cielo. Non dimenticarti di noi, vecchia amica. Questo è per te. Così non dimenticherai mai questa notte. Che cos'è? Non posso aspettare. Ecco. Ecco per te, tutto questo è per te, mia cara, cara amica. Tutto questo ti sta facendo venire un po' fame, amico? Miei cari amici, amo tutti voi. Oh, grazie per tutto questo. Non devi ringraziarci. Non devi ringraziarci. Non devi ringraziarci. Non devi ringraziarci. Ti vogliamo bene. Sarai sempre nei nostri cuori. Quando saremo felici, brilleremo soprattutto per te. Buonanotte, amici miei. È giunto il momento. Non ci posso ancora credere. Mi scusi? Cosa sta succedendo? Stiamo spegnendo la sua fiamma. Sarà sostituita. Stasera è la sua ultima notte. Che triste! Ho così tanti ricordi qui. Arrivederci amica mia. Addio. Oh? Che cos'è? Cosa sono quei suoni? Oh, mio Dio! Il mio vecchio amico! Tutti i miei amici! Oh, piccoli! Pensavi che ti avrei dimenticata? Cosa sarebbe stata la mia vita senza di te? Oh, grazie! Grazie a tutti! Grazie.